Il senso di questa iniziativa è di parlare di Radio e TV, perché diciamo l'argomento è girare intorno al tema carcere. Lo facciamo in tanti modi diversi, con tante persone, cercando di portare fuori il carcere, tant'è che nella seconda parte della giornata ci saranno proprio le persone ristrette, che addirittura verranno da Milano. Ci sarà il coro Gli Amici della Nave di San Vittore, che faranno il primo trasferimento fuori dalla regione, e poi ci saranno persone che lavorano per FID, ci saranno altre persone che hanno avuto un passato di detenzione. Insomma, l'idea è di far conoscere alla città questa realtà che noi veicoliamo attraverso la nostra trasmissione. Ovviamente poi ci sono anche tutti i rappresentanti istituzionali, ci sono le associazioni che tanta parte hanno nella nostra trasmissione. È anche un momento per festeggiare insieme e fare un po' quadrato in un quartiere che si sta spendendo tantissimo proprio sull'argomento, sul tema carcere. La trasmissione è nata in un momento, diciamo così, di crisi, quello della pandemia, ma spesso questi sono i momenti che sono forieri poi delle idee migliori. Hai ragione, sono momenti generativi, perché quando ti trovi davanti a una grande difficoltà cerchi una soluzione che possa, insomma, come dire, svoltare in qualche modo, e questa idea ce l'hanno avuto Ignazio De Francesco, che è un monaco islamologo, insieme a Caterina Bombarda, giornalista. Non riuscivano più ad entrare in carcere come tutti, eravamo tutti chiusi dentro ovviamente, e quindi tutte le attività trattamentali, dalla scuola al sostegno spirituale, i colloqui, qualsiasi cosa, era stato tutto bloccato. A quel punto nasce l'idea e quindi cominciano a mettere in piedi questo progetto, un progetto che poi pian pianino si è chiaramente arricchito di collaborazioni diverse, ha ricevuto l'attenzione delle istituzioni, ASP di Bologna e ASL, e pian piano ha cominciato a prendere una forma che è sempre stata più, diciamo, più delineata, e soprattutto ha cominciato ad avere un riscontro da parte delle persone ristrette, che ci scrivono, partecipano quando si può e nelle misure in cui sia possibile alle nostre trasmissioni. Ecco, l'idea è di accorciare le distanze e veramente di lavorare sempre di più con le persone ristrette, perché parlare di carcere senza coinvolgere i diretti interessati non è neanche la cosa migliore, forse. Però poi avete usato la metafora del ponte, e ascoltando appunto la trasmissione si capisce che, diciamo, non è una trasmissione, passami il termine, vertenziale solamente, cioè vi occupate di tantissimi temi, approfondimenti, anche rubriche più leggere. Sì, hai ragione, anche perché l'impulso ci è arrivato direttamente dai detenuti. Un giorno eravamo al femminile e ci hanno detto: sentite, basta parlare di carcere, ma non sapete che noi siamo in carcere, non c'è bisogno che ce lo ricordiate raccontandoci solo di questo. E così sono nate, per dire, delle rubriche che là per là, quando le abbiamo messe in piedi, ci hanno fatto pensare che forse sarebbe stato troppo leggero. Invece no, perché abbiamo portato all'interno del carcere una piccola rubrica sul trucco, su come ci si trucca in condizioni difficili senza avere tutto a portata di mano, e si chiama Liberamente Truccate, per dire, che è stata realizzata tra l'altro da una make-up artist del Teatro dell'Argine, Francesca Bagnara, oppure una rubrica sui capelli, su come riuscire ad essere presentabili e prendersi cura di se stesse all'interno del carcere. Ovviamente ci sono passaggi di cultura, abbiamo fatto interviste a diversi scrittori, a cantanti, cerchiamo di aprire anche a quello che succede sulla città, con una narrazione che sia un po' diversa, anche perché vivere in carcere spesso ti fa interpretare il mondo soltanto attraverso la TV, comunque i mezzi di comunicazione, o qualcosa che entra dai volontari. È molto disorientante, ecco, questo sicuramente. Quindi l'idea era quella di far entrare le tante cose che succedono fuori, ma attraverso qualcosa di un po' più dedicato. E quindi, come dicevi, sì, non parliamo solo di carcere, sicuramente. Ne approfitto solo per aggiungere che sì, ci sarà con noi anche Alessandro Bergonzoni, che molto spesso in queste cose c'è a fianco, e quindi lo ringraziamo sin d'ora.